Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap, su una moto in tre. Odio stare calmo quando sto con te. Come quando mi guardavano se giravo nei blocchi. Ma ero in studio per portare i miei fuori dai blocchi. E ricorda che tutte ste finestre hanno gli occhi. Yes, yes, non dormo più stress. Le collane fa rumore nelle rec. Ehi, hey, yeah, questo è il mio destino, bang. C'è chi scazza ancora per le sighe e quei due strati, bang. Ehi, hey, yeah, il quartiere è casa, ehi. La fama ti cambia, è una donna che ti ammazza, ehi, yeah. Non c'è bisogno che andiamo d'accordo. Mi affido ai miei fra, non ho un dio, però ora un conto. Mi hanno preso in 10, no, non mi farei più nulla. Niente facile, brother, se sei dentro la giungla. Yeah, fumo e sento da Supreme. Mamma, sto firmando il deal. Prima stavo andando lì, ehi. La terra che ho calpestato ce l'ho ancora in tasca. Odio stare calmo, questo cash non basta, ehi. Odio stare calmo, ehi. Perché stare calmo, fra, non serve più un cazzo, ehi, ehi, ehi. Io perdo sul mio collo, ehi. Perdo sto volando, ehi. Faccio paura che ride, ehi, ehi. Odio stare calmo, ehi. Perché stare calmo, fra, non serve più un cazzo, ehi, ehi, ehi. Io perdo sul mio collo, ehi. Perdo sto volando, ehi. Faccio paura che ride. C'era sempre con un bro, oh, oh. Aspiro un tiro che non avrei fatto senza loro. Siamo messi in salvo, yeah, yeah. Lei ha una cima in palmo. Il futuro nelle